La rosa purpurea di Franco D'Assisi. I'm pleased to announce that the film selected as the best picture nominees for 2008 are The Curious Case of Benjamin Button, Frost Nixon, Milk, The Reader and Slumdog Millionaire. È la voce di Forrest Whitaker mentre giovedì scorso annunciava i 5 titoli candidati all'Oscar per il miglior film. E questa è la notizia più importante della settimana cinematografica e con questa apriamo la puntata della Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi, fra poco vi racconteremo come sempre tutte le novità che troverete al cinema in questo fine settimana. Italians con Scamarcio e Verdone che abbiamo intervistato per voi e Milk con Sean Penn e la regia di Gus Van Sant, anche lui nostro ospite, i film principali. Ma prima, come dicevamo, vogliamo commentare brevemente le nomination agli Oscar. Il conteggio: 13 nomination per Il curioso caso di Benjamin Button con Brad Pitt, 10 per Slumdog Millionaire, The Millionaire come lo conosciamo noi in Italia, 8 per Milk con Sean Penn di Gus Van Sant. Le varie facce dell'America del cinema, la Hollywood dei blockbuster, quella appunto di Benjamin Button, quella dell'impegno civile con Milk e quella che esplora territori esotici, che si è innamorata di Bollywood. Guardate un po' cosa sta pensando Spielberg, andare a produrre cinema lì in India, rappresentata appunto da The Millionaire, che è il grande outsider. Il commento del direttore di Chuck, Piera De Tassis. In generale sono titoli tutti attesi e quindi non c'è quasi nulla di sorprendente, forse solo Shannon non protagonista, che in generale il miglior film mi trovano anche parecchio d'accordo, anche se io li ho amati tutti, anche se il grande sconfitto è Clint Eastwood con 2 film e un grande classico come Eastwood. È un po' strano che non appaia né per Gran Torino né per The Changeling. Comunque direi che sono tutti degli ottimi film, insomma, tra l'altro tutti molto molto impegnanti e tutti piuttosto sorprendenti dal punto di vista visivo. Tra gli attori, battaglia in vista fra i protagonisti al maschile con Brad Pitt, Richard Jenkins, lo strepitoso protagonista di The Visitor, l'ospite inatteso, Frank Langella e Mickey Rourke, già vincitore morale del Leone d'Oro di Venezia e vincitore reale del Golden Globe per il suo ruolo in The Wrestler. Fra i non protagonisti c'è anche Heath Ledger, come sapete è morto dopo aver interpretato un grande Joker nel Cavaliere Oscuro. Meryl Streep è candidata per la 15ª volta agli Oscar, è protagonista de Il Dubbio nelle prossime settimane nei cinema italiani. Anne Hathaway, Angelina Jolie, Melissa Leo e Kate Winslet sono le altre candidate. Kate Winslet, che ha già vinto il Golden Globe e come protagonista di Revolutionary Road e come non protagonista appunto di The Reader. Anche qui sentiamo il commento di Piera De Tassis. Beh, in più forse la meno popolare fra queste è Melissa Leo per Frozen River, però diciamo che sui giornali chi si occupa di questo lavoro sapevamo che era stata più o meno annunciata, ecco, perché Frozen River è un film che da noi non si è visto, molto indipendente, ma che ha strabiliato tutti al Sundance e molti osservatori americani avevano previsto che lei sarebbe stata candidata. Avrei pensato a una doppia candidatura per Kane Winslet, che è veramente sorprendente sia nella lettrice The Reader che in Revolutionary Road, che però vedo non ha raccolto alcun consenso, mentre a me è piaciuto molto. E l'appuntamento con gli Oscar è per il 22 febbraio. Noi ora invece proviamo a farci il palato sui film del weekend nelle nostre sale con il nostro audio sommario. Che cosa hai, Taco? È solo che Clive e Anne hanno cercato di tenermi fuori dal tuo tavolo, baby. Non la sopporto quella puttana. Dovresti licenziarla. Li hanno uccisi. Papà e mamma. Avrei dovuto proteggerli. No. Siamo una famiglia. Dobbiamo restare insieme. Hai un piano? Solo 4 pallottole. Ma me la dà sta soddisfazione di fare st'ingresso trionfale a San Pietroburgo? Io con le prostitute non ci sono mai andato nella mia vita. Tutti così dicono, nessuno mai andato a prostitute. Vuole sapere come le chiamo io qua? Nipotine. Sento delle voci. Nel cuore della notte mi sveglio ed è come se qualcuno mi infilasse delle idee nella testa. Calma. Liberiamolo stanotte. I soldi ci servono. Che fine hanno fatto gli altri? Io voto per liberare David. Ma io non voglio tornare a casa. Kate, loro sono i miei fratelli Denver e Dallas, ecco. Ciao, molto piacere. Piacere mio, tu devi essere la ragazza di Orlando. Orlando? Sì, ci chiamiamo col nome delle città in cui siamo stati concepiti. Io sono Denver, lui è Dallas. E questo è Orlando. Milk e Italians, dicevamo quindi, i film più attesi, soprattutto il secondo, destinato a scalare sin da subito le classifiche al botteghino. Noi però vogliamo cominciare con una commedia, viene dall'America, si intitola Tutti insieme inevitabilmente, ed è la storia, forse un po' fuori tempo massimo, di un Natale in famiglia un po' particolare. L'ha visto per noi Micaela Bellisario. Ciao papà. Mamma, sono Kate. Mamma, purtroppo non potremo essere Ciao, da voi papà, domani. Sono Lo sai che ci è dispiaciuto da morire l'anno scorso, ma dovevo risolvere Non potremo quel festeggiare problema. Con voi domani. Kate e Brad sono una coppia di giovani professionisti di San Francisco. Non hanno figli, non ne vogliono e non intendono sposarsi. La loro vita è fatta di cene, party e vacanze, soprattutto a Natale, quando il richiamo della famiglia è inevitabile. Ma all'ennesima fuga all'estero, il 25 dicembre, il volo per le Fiji non parte a causa della nebbia e i due sono costretti a raggiungere le loro famiglie, 4 in tutto, dato che sono figli di divorziati. Sospesi i voli in arrivo e anche quelli in partenza. Non è possibile. Non esiste una compagnia gemella? No, mi dispiace. Una compagnia cugina? No, neanche. Neanche una compagnia che ha dato una palpatina alla vostra? Le visite ai parenti si riveleranno un disastro totale. Kate e Brad finiranno per scontrarsi con le loro paure di bambini e riapriranno le ferite dell'adolescenza fino a rimettere in discussione il loro stesso futuro. Kate, loro sono i miei fratelli Denver e Dallas. Ecco. Ciao, molto ciao. Piacere. Piacere mio, tu devi essere la ragazza di Orlando. Orlando. Beh, il mio nome di battesimo è Orlando, ma l'ho cambiato con Brad, quindi... Ma vale Brad. Mentre Brad conta i minuti per fuggire da questa famiglia allargata, composta di fratellastri, zii e nipoti acquisiti, Kate inizia a vedere la propria situazione sotto una luce diversa e si domanda se le scelte folli dei suoi familiari siano davvero così folli. Loro sono intimiditi da te. Quello che devi fare è andare da loro e stabilire dei confini ben precisi e pretendere che ti rispettino. Mi sono spiegata? Gente della metropoli, è ora di aprire un po' di regali. Questa è la tua occasione. Ce la puoi fare, amore. Tutti insieme inevitabilmente è una storia in cui tutti si possono rispecchiare facilmente. Chi non vorrebbe evitare la visita dal parente di turno durante le feste? Sicuramente alcuni momenti del film sono tratteggiati forse in maniera fin troppo grottesca, ma per sorridere va bene anche così. Fin troppo notevole il cast. Accanto ai protagonisti Vince Vaughn e Reese Witherspoon ci sono Robert Duvall, padre sgraziato di Brad, Sissy Spacey, la madre alternativa, e John Voight, padre tenero della bella Kate. Ma sentiamo Reese Witherspoon sul film. È un film con un'idea singolare alla base, il Natale nelle famiglie allargate. Chiunque può riconoscersi. Il film è stato girato in una maniera divertente e sono sicura che chiunque potrà farsi sane risate. Kate ha sempre odiato il salta-salta. In quinta elementare dei ragazzini la intrappolarono nel salta-salta e lei non ha mai superato il trauma. Sì che l'ho superato. La rosa purpurea. Un uomo che aveva grande coscienza e conoscenza della politica e della comunità, un uomo che è diventato un simbolo di speranza per tantissima gente, un personaggio intenso da interpretare e di grande valore, un caso che tutti dovrebbero conoscere. Che ne pensi del mio nuovo teatro? Un po' sopra le righe. Ti sei messo la giacca? Me l'ha prestata un amico. No. Ogni volta che vieni qui voglio che tu ti metta i jeans più attillati possibile. Puoi fare un vero ingresso da star adoperando queste scale. La voce di Sean Penn, il pensiero ironico di Harvey Milk. Apriamo così la seconda parte della Rosa Purpurea parlando del film sul leader del movimento per i diritti degli omosessuali che cambiò le cose nell'America degli anni 70 e che potrebbe dare a Sean Penn il secondo Oscar dopo quello di Mystic River. Certo non sono tempi facili neanche quelli di oggi per il movimento omosessuale alle prese con le battaglie per i diritti civili, ma c'è stato un tempo in cui l'amore fra due persone dello stesso sesso era fuori legge. Un tempo non così lontano, all'inizio degli anni 60, i locali nei quali si ritrovava la comunità gay erano spesso chiusi da retate della polizia e questo accadeva in America. Innocenti, vulnerabili, impauriti, gli omosessuali salivano sui cellulari, venivano schedati e dopo qualche notte in carcere rimandati a casa nell'anonimato della loro condizione clandestina. Fu così fino a quando un uomo, Harvey Milk, gay newyorkese trapiantato a San Francisco, non venne allo scoperto, generando il primo grande movimento di appartenenza sessuale. Ragazzi! Eccola. Ma chi è? Si occuperà della campagna elettorale. Anne Cronenberg, una donna a cui piacciono le donne. Piuttosto curioso, no? Ciao ragazzi. Hai rimpiazzato Scott con una lesbica. Siete sempre così paranoici qui. Ah sì, abbiamo preso da Harvey. Harvey Milk aveva 42 anni quando aveva seguito nella Città del Vento il suo amante Scott Smith. Si erano installati nel quartiere popolare di Castro, che di lì a poco sarebbe diventato il principale quartiere gay del mondo, poi decimato dall'AIDS all'inizio degli anni Ottanta, e lì avevano aperto una piccola bottega di fotografia chiamata Castro Camera. Fu così, quasi per caso, per plateale protesta contro il pestaggio omofobo di un amico, che Milk imbracciò il megafono e improvvisò un comizio davanti a una decina di ascoltatori, per lo più casuali. Era nato il politico Harvey Milk. Milk dimostrò subito qualità e intuito politico. Si alleò coi camionisti per boicottare la birra Coors, che imponeva condizioni di lavoro disumane agli operai. Diritti umani e civili, quindi, ma anche politica a tutto tondo. Fu questa visione allargata che, se non al primo, al secondo, al terzo, al quarto tentativo gli valse finalmente l'elezione a consigliere comunale di San Francisco, primo omosessuale dichiarato a ricoprire una carica così importante in America. Allora, la prima proposta a uscire da questo ufficio sarà un'ordinanza per i diritti dei gay identica a quella che Anita Bryant ha fatto abrogare nella contea di Dade. Che ne pensi, fior di loto? Una buona cosa. Niente da dire. Dan White non la voterà mai. Dan White non è un problema, è solo uno che non sa le cose. Gliele insegneremo. Ma quel mondo che aveva faticosamente conquistato, con la sua energia un po' ruffiana e populista, ma sempre generosamente a disposizione della causa, stava per fargli pagare il conto. Well, I'm up on the 11th floor and I'm watching the cruises below. Il film racconta la storia di Harvey Milk con un montaggio serrato che salta avanti e indietro sulla linea narrativa, rappresentata da una lunga dichiarazione di Milk letta su un registratore. Una sorta di testamento politico e umano, quando ormai Milk, da tempo oggetto di minacce, si sente in pericolo. Sean Penn è l'interprete perfetto per un film davvero insidioso per un attore. Ricostruire la gestualità, i modi, gli atteggiamenti dell'universo omosessuale è difficile, la macchietta è sempre in agguato, ma Sean Penn governa la situazione, la elabora e la ripropone come fosse sua. Spesso si parla di entrare nel personaggio per descrivere il lavoro di un attore. Ebbene, qui è piuttosto il personaggio che è entrato in lui. Una prova da Oscar. Alla sua corte una nidiata di attori giovani ma già affermati come James Franco, Josh Brolin, Diego Luna, Emil Hirsch e l'insospettabile Lucas Graves, il Ryan di High School Musical. Gus Van Sant, regia solida e meno provocatoria del solito, non si lascia sfuggire l'occasione per un paio di momenti davvero lirici. Sentiamolo raccontare la genesi del progetto Milk al microfono di Boris Sollazzo. Well, Harvey was for a long time for me, ever since I learned about him through his assassination. Avevo in mente di girare un film su Harvey da moltissimo tempo. La prima volta che ho sentito parlare di lui è stato quando l'hanno ucciso. Negli anni 70 ancora non mi ero dichiarato come gay e non ero attivo politicamente. Poi ho visto un documentario e qualche anno dopo ho sentito parlare di un progetto di Oliver Stone che poi non è andato in porto. Cercavano un regista, ma io a quel tempo ero impegnato su altro. Anche la mia sceneggiatura però non ha funzionato. E allora eccoci qua, con questa sceneggiatura, quasi identica all'originale. Lance had a script that was basically the same, it was the same story. E a proposito dello stile del film Milk, Gus Van Sant si esprime così. I think we tried to create a style that was actually quite, da un punto di vista stilistico, all'inizio avevamo pensato a uno stile estremo, che però non andava. Abbiamo quindi ripiegato su forme più tradizionali. Pensavamo a un documentario, ma quella strada non ha portato da nessuna parte. Dal momento che la sceneggiatura era già tradizionale, allora abbiamo optato per un ritmo altrettanto tradizionale. Scene di un minuto, tre minuti e andamento lineare. And you're building the story linearly. Milk nelle sale cinematografiche italiane da questo fine settimana in corsa verso l'Oscar. Noi apriamo la prima finestra sul DVD Game, il tradizionale gioco che vi regala DVD qui alla Rosa Purpurea. Tre tracce di un film misterioso da indovinare. Cominciamo con la prima. Dobbiamo rimanere uniti per fare leggere un DC. Quindi, cari ragazzi, dovete mettervi d'accordo. Parlatene con franchezza. Se c'è la candidatura dell'amico Arnaldo, la mia non esiste. Se c'è la candidatura dell'amico Giulio, la mia non esiste. Ho capito. La Rosa Purpurea @radio24.it, se avete già indovinato di che film si tratta, più tardi avrete ancora un paio di possibilità per provare a vincere il DVD proprio di questo film. E ora parliamo di un'altra pellicola in uscita nei nostri cinema, un episodio di resistenza armata ai nazisti che ci ricollega alla giornata della memoria dell'Olocausto che si celebra il prossimo 27 gennaio. Storia europea ma impianto hollywoodiano per questo film che si intitola Defiance, firmato da Edward Zwick, di cui ricordiamo una riuscita commedia di una ventina d'anni fa a proposito della notte scorsa, con un cast allora giovane ma di attori molto affermati: Rob Lowe, Demi Moore, James Belushi e poi colossal come Glory sulla guerra di secessione e L'ultimo samurai. Defiance, raccontato alla Rosa Purpurea da Barbara Righini. È il 1941, i nazisti stanno operando la loro pulizia etnica in tutta Europa. In Bielorussia tre fratelli ebrei scampano al massacro e si rifugiano nei boschi. Sono i Bielski. Il film Defiance, I giorni del coraggio, è tratto da una storia vera. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, 1200 ebrei spuntano dai boschi, si erano salvati. I fratelli Bielski avevano scelto di lottare e di non arrendersi. Si accamparono nella foresta, presto furono raggiunti da altri ebrei e formarono una nuova comunità. La nostra vendetta sarà vivere. Qualsiasi contadino. Quello che noi. Voglio farvi capire è che non siamo né ladri né assassini. Ci cacciano come animali, ma noi non diventeremo degli animali. Abbiamo tutti fatto la scelta di vivere qui, da esseri umani, più a lungo che potremo. Ogni giorno di libertà equivale ad un atto di fede. Può darsi che moriremo cercando di vivere, ma almeno moriremo da esseri umani. Protetti dagli alberi, Bielski si organizzarono, costruirono con gli altri baracche e si procurarono del cibo. Non mancarono poi le storie d'amore. La febbre è scesa stanotte. La medicina è servita. Va bene, ma quanto ho dormito? 2 giorni. Sei stata con me. Adesso mi devo alzare. No. Non stai ancora bene. Ma tu sei un'infermiera? Andavo all'università. Defiance è un'occasione sprecata. La storia mai raccontata al cinema poteva offrire al regista, lo stesso di Blood Diamond, la possibilità di guardare all'Olocausto in maniera diversa. Invece Edward Zwick non ha perso occasione per mettere in bocca ai personaggi parole retoriche e per costruire situazioni attese. La musica a sottolineare i momenti topici, gli sguardi dei protagonisti a sollevare compassione o rabbia. Defiance finisce per essere semplicemente un nuovo titolo nell'elenco dei film che parlano di Olocausto. Nel cast, nel ruolo di Tuvia Bielski, c'è lo 007 Daniel Craig. Il suo è un eroe con qualche debolezza. Boris Sollazzo ha incontrato l'attore. Ho sempre pensato che l'eroismo e il coraggio siano molto più complicati di quanto si pensi. Quando le persone si trovano in situazioni straordinarie, non si sa come possano reagire e questo spesso si fa soggetto di film. Questo è molto affascinante, ci piace guardare le persone in situazioni di sofferenza, è quasi un qualche cosa di perverso. Ecco allora, dipingere il mio personaggio il più complicato possibile ha stimolato il giudizio della gente, ma è giusto così, il pubblico deve giudicare. Io guardo a ciò che ha ottenuto, la sopravvivenza di 1200 persone e il viaggio che ha dovuto compiere per riuscirci mi interessava. Non volevo farlo bianco o nero, lo volevo reale. Questo film dice anche che bisogna lottare per la propria dignità, bisogna salvarsi da una condizione di animali, e facendo le dovute proporzioni anche nel cinema è così. Senza fare troppi paragoni, io credo che sia necessario combattere per ciò in cui si crede e che vada fatto in modo appassionato. Così si rimane fedeli a se stessi e si resta umani. Si fa presto a trasformarsi in mostri in una situazione come quella e si fa presto a diventarla Hollywood, ti devi controllare. Intanto prosegue il dominio al botteghino delle 7 anime di Gabriele Muccino, mentre ci si aspettava di più, forse, dal primo weekend di Australia con Nicole Kidman. Sentiamo come sono andate le cose in classifica con la Screen Parade di Daniela Fagion. Gabriele Muccino ancora col vento in poppa, inseguito dalla fantascienza. Debutto al 5° posto per l'esercito di viziatissimi Beverly Hills Chihuahua, che appendono al collare 1.284.000 euro. Dove siamo? Sei nel Chihuahua, la patria di origine della nostra grande razza. Io sono nata a Beverly Hills. Scende dal secondo al quarto posto Yes Man, che sfiora il 1.8 milioni e supera i 5 milioni complessivi. Debutta con la medaglia di bronzo Australia, quasi 1.900.000 euro per Nicole Kidman e Hugh Jackman, diretti da Baz Luhrmann. Signor Drover, c'è una sola tenda. È che non siamo abituati a... A una donna? A degli ospiti. Ad avere degli ospiti, era questo quello che stavo per dire. Fantascientifico remake al secondo posto con Il viaggio al centro della Terra, che debutta sfondando il tetto dei 2 milioni. La temperatura si sta alzando. Quanto tempo abbiamo? 48 ore, forse anche meno. Al primo posto si conferma Sette anime di Gabriele Muccino. Il film con Will Smith, primo anche in Spagna e secondo in Francia e Inghilterra, ha incassato altri 2 milioni e 6 e supera in totale i 7 milioni e 8. So di essere la ragazza dalle ali spezzate, ma chi sei tu? La rosa purpurea. Perché trasportiamo solo Ferrari? Perché le Ferrari sono un mito. E queste dove le hanno rubate? Le Ferrari non le ha mai rubate nessuno. Le Ferrari sono di tutti, sono patrimonio dell'umanità. Questa è la strepitosa filosofia spicciola di Fortunato e Marcello, ladri d'auto, col cavallino rampante si intende, che così giustificano ai propri occhi la loro condizione di lestofanti. La terza parte della Rosa Purpurea si apre con Italians, attesissima commedia diretta da Giovanni Veronesi e prodotta da Aurelio De Laurentiis, che si ripropone di scalare le vette delle classifiche al botteghino grazie a due ingredienti principali: un cast di grande popolarità e di classe, con Verdone, Scamarcio, che attirano generazioni diverse, e Castellitto, un fuoriclasse poco utilizzato come attore di commedia ma sempre in palla quando gliene viene data la possibilità, e un clima da commedia all'italiana che prende in giro vizi e virtù nostrane quando ci troviamo all'estero. Lasciatemi cantare, con la chitarra. Ma quel cretino non è il pilota inglese? Mandolino in mano, e tu sei un'italiana, e con la pizza in mano. E mo mai rotto per cazzo. Due episodi. Il primo ha per protagonisti Castellitto e Scamarcio, alle prese con un tir carico di Ferrari rubate, in viaggio attraverso il deserto per arrivare a Dubai. È in un hotel di quella terra artificiale che si finisce in rissa, come avete sentito. L'italiano all'estero sopporta di tutto, ma non di essere preso in giro per le sue origini, e da un inglese per giunta. Ma fin lì, Fortunato e Marcello, che si fingono padre e figlio con tanto di passaporti falsi, avevano mostrato il meglio degli italiani oltre confine: generosità con i popoli del deserto arabo, attrazione per le loro bellissime donne di cui si scorgono solo gli occhi, amore per quei motori rombanti che si portano appresso. Fortunato Castellitto è stanco, gli anni avanzano, vorrebbe stare un po' di più con la figlia e sta per passare il testimone a Marcello Scamarcio, con tanto di colpo di scena finale. Che me dai, scherzo? Un dito? No, farlo con tutte le mani come prima. Ma che te sei impazzita? Mica sta attacca al quadro, oh! Io se ti vibro un mignà, значит ti хочеш страдати. Ma che sta... Ciao, li mortacci, due! Sì! Che fai? Ma sizza di che? E poi c'è il secondo episodio. Carlo Verdone, dentista di successo e un po' depresso, manco a dirlo, partito di malavoglia alla volta di San Pietroburgo per un convegno che si trasforma in un tour sessuale, con le conseguenze che vi abbiamo appena fatto ascoltare. Gli ha preparato tutto un pappone siciliano, Dario Bandiera, che della nuova Russia vede solo le potenzialità di sfruttamento della prostituzione. Verdone, voglio ma non posso, o meglio faccio ma non dico, ci sta dentro vergognandosene finché non troverà un interprete, Kasia Smutriak, che gli farà scoprire una Russia diversa dai valori solidi. Spero solo che gli italiani che restano in Italia siano migliori di quelli che vengono qua. Grande produzione e tanto product placement per un film lontano certo dai cinepanettoni, grazie soprattutto al talento degli attori, ma lontano anche dalle vette della commedia all'italiana, di cui manca il sorriso amaro, un po' autoassolutorio rispetto ai difetti italici, tutto sommato giustificati, un po' retorico riguardo ai pregi. Sceneggiatura un po' slegata, a volte poco più di un pretesto per far sì che le cose accadano. Il personaggio che resta più in mente è certo il ladro di Sergio Castellitto, gagliardo e un po' patetico. Ma sentiamo ai nostri microfoni Riccardo Scamarcio e il regista Giovanni Veronesi. La prima domanda per Riccardo Scamarcio, un uomo che mostra due aspetti dell'italianità, soprattutto nel rapporto con le donne, comincia con una scena di sesso irruento e poi invece si innamora nel mezzo del deserto di un paio di occhi. Ti rispecchia questo personaggio? Sì, è un'analisi, diciamo, originale, beh, che condivido, quella che fai. In effetti sì, perché c'è, diciamo, c'è il folklore, c'è l'irruenza, come hai detto giustamente, ma c'è anche poi la capacità di farsi portar via da un sentimento, nel nostro caso sentimento di amicizia, che in qualche modo vince. Credo che questo si possa dire degli italiani, che comunque è un popolo sentimentale. Giovanni Veronesi, perché era necessario mettere gli italiani all'estero per far venire fuori vizi e virtù? Perché gli Italians sono un popolo particolare, sono una razza a parte. Gli italiani all'estero sono completamente diversi da quelli in patria. C'è chi dice che gli italiani danno il meglio di sé all'estero e riservano il peggio per il proprio paese. Io non sono così sicuro. Io sono sicuro che gli italiani all'estero hanno delle capacità in più e anche delle volontà in più. Sicuramente tirano fuori degli aspetti del loro carattere che sono molto più espliciti, tipo la cialtroneria, però anche la grande generosità. Non esiste uno al mondo che non abbia incontrato un italiano e che non si ricordi di quell'incontro. Torniamo a Riccardo Scamarcio, raccontaci un po' il personaggio di Sergio Castellitto, quest'uomo dolente ma sempre allegro comunque, e il rapporto che hai invece con il tuo personaggio. Ma diciamo che il personaggio di Castellitto è anche un po' un superficialone, anche un personaggio, se vogliamo, limitato, no? Quindi credo che lui veramente non riesca a capire che cosa sono io per lui, mentre quello di Marcello deve rappresentare un po' il personaggio che riflette, no? Che comunque non si ferma, non ragiona per luoghi comuni o preconcetti, è un personaggio, diciamo, un po' più moderno, ecco. E comunque anche tu ne hai menate di botte durante la scena della rissa nell'hotel di Dubai. Certo, perché poi in realtà anche lui è un Italians, cioè, quindi nessuno esente, anche chi fa funzionare il cervello, però a volte il cervello lo usa per spaccare le teste, non so come dire. Quanto a Carlo Verdone, racconta così la metamorfosi del suo dentista. Il rapporto con le donne, la prima parte è di questo povero disgraziato, una persona seria, abbastanza poi schivo delle persone invadenti, che si trova coinvolto in situazioni comiche, chiaramente, ma drammatiche, e con Bandiera, che il personaggio lo porta in gironi infernali, e anche con queste donne, che una di queste, insomma, è piena di cocaina, mi comincia a prendere a botte, e me la date veramente poi sul set, ma veramente gonfiato di botte. Pensavo di fare una commedia, sono uscito che sembrava il protagonista di Mel Gibson. Poi la seconda parte invece è più poetica, perché c'è un incontro con la mia interprete, che è Xenia Rappaport, e attraverso di lei vedrò una Russia completamente diversa. E il finale è molto poetico, però non lo sveliamo perché è in un ambiente molto particolare, quindi abbandoniamo la parte quella della gran risata e entriamo in quella più romantica e anche più toccante. E dopo aver parlato di Italians, giochiamo di nuovo con il film misterioso della settimana. Mi rivolgo allo Stato, mi rivolgo agli inquirenti, io vi chiedo di identificare e di castigare esemplarmente tanto gli esecutori come i mandanti, perché anche questa volta essi non rimangano, specialmente i mandanti, in uno scontro. La rosa purpurea @radio24.it se avete indovinato di che film si tratta. Ultimo film del weekend è un horror psicologico con un bambino che fila dritto nella galleria di enfants diaboliques del cinema. Si intitola Il respiro del diavolo e l'ha visto per noi Daniela Fagioni. Max è stato in galera e ha pagato il suo debito con la giustizia. Ora avrebbe bisogno di soldi per sistemare un ristorante da gestire con la fidanzata Roxanne, ma la banca, visti i suoi trascorsi, non gli concede il prestito. Messo alle strette, non può far altro che cedere di nuovo alla tentazione del crimine e aggregarsi a due amici che hanno organizzato il rapimento di un bambino su commissione. La vittima è David, un taciturno ragazzino adottato da una famiglia benestante. Il piccolo viene portato via durante una festa di Natale e condotto tra i boschi innevati del Maine. Da subito però i sequestratori percepiscono qualcosa che non va. Cosa dici, la maledetta? Per favore, non uccidermi. Non hai le capacità, non puoi farlo. Nell'isolamento della baita, Roxanne è la persona che entra prima in sintonia con il bambino, di cui avverte la voce e la presenza anche nel sonno. La ragazza cerca di convincere il fidanzato a lasciar perdere l'impresa, ma l'affare è andato troppo avanti e il committente del rapimento vuole che l'operazione proceda. Maria, batti Jones! Cosa? Jaws, io non sono Jaws. Non so di cosa parli, lo giuro. E questo cos'è? Nella stanza in cui è rinchiuso, David comincia a disegnare sui muri le cose che gli accadono e dimostra una consapevolezza dei fatti molto più profonda di quanto la scalcagnata compagnia di rapitori potesse aspettarsi. Abracadabra. Divertente, ridammelo. Lo darò a Max quando gli dirò tutto. Tutto cosa? Di te e di Roxanne. Oh, ho fatto scacco. Allora, ti piace giocare, eh? Io conosco un bel gioco. I bambini, si sa, sono demonietti per definizione, ma il David del Respiro del Diavolo ha qualcosa di davvero inquietante. Anonimo quanto basta per essere malleabile con trucco e luci, il giovane attore che lo interpreta fa da contraltare ad adulti un po' insipidi, a volte sul filo della macchietta. Le situazioni e i colpi di scena non aggiungono nulla al genere e anche le scelte fotografiche non peccano certo di originalità. Il pubblico televisivo invece può riconoscere nel protagonista maschile Josh Holloway, attore reso celebre dalla serie Lost. E dall'attualità cinematografica italiana a quella americana con Trailer USA, la rubrica che vi anticipa tutti i film d'oltreoceano prossimamente sui nostri schermi. Ritroviamo quindi la nostra Micaela Bellisario per parlarci di un film natalizio che ha avuto un successo enorme nei botteghini americani. Si tratta di Marley and Me, con Jennifer Aniston e Owen Wilson, che dovrebbe uscire da noi in aprile con il titolo abbastanza fedele di Io e Marley. Allora Micaela, qual è la trama di Marley and Me? Allora, è una tipica storia natalizia di buoni sentimenti, di giovani coppie che si vogliono bene e che decidono di mettere su casa insieme. In attesa dei figli, proprio per Natale, Owen Wilson regala alla moglie Jennifer un cagnolino che si chiama appunto Marley e si rivelerà in breve naturalmente una vera peste. Nel passo del trailer, il momento, diciamo così, del magico incontro tra Jennifer e il piccolo Marley. 2, 3. They're adorable. Hi, puppy. Marley, this is our house. And now it's yours. Crescendo, Marley ne combinerà di tutti i colori, assalirà il postino, distruggerà il divano della coppia, ribalterà tavolini durante l'ora dell'aperitivo nei locali pubblici. Sentiamo sempre un passo del trailer in cui Jennifer e Owen sono sempre più preoccupati. He's just like a little kid, except no furrier. That's not a dog. That is evil with a dog face. Yep. He made an answering machine and then went back and had the phone for dessert. Esasperata, la coppia decide di mandare il piccolo Marley da un'istruttrice che punta subito il dito contro gli stessi padroni, domanda immediatamente chi è il più autoritario nella coppia. Which one of you has the most authority in your relationship? Maybe I'll stand over there for the beginning. I thought so. Il finale ovviamente non ve lo sveliamo, però vi diciamo che Marley si calmerà solo quando la coppia avrà un figlio. Perfetto, un film che dovrebbe piacere ai più giovani e che si presenta gradevole da guardare, almeno appunto stando al trailer. Ciao Micaela. Ciao Franco, alla prossima settimana. La Rosa Purpurea. Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea per il finale di trasmissione, fra poco parleremo di DVD, prima però vogliamo proporvi qualche voce raccolta al Trieste Film Festival che si è chiuso nel corso della settimana con la vittoria del tedesco Volker Neun al Settimo Cielo, che uscirà tra l'altro in Italia nelle prossime settimane, una storia d'amore, adulterio e terza età che tanto scalpore aveva suscitato già a Cannes per le scene di sesso fra i due anziani protagonisti. Siamo stati un weekend a Trieste a curiosare fra le proposte di questo festival, tutto imperniato originariamente sulle cinematografie della cosiddetta Alpe Adria, che va dalla Mitteleuropa ai Balcani, un'area ricca di tradizioni cinematografiche che negli ultimi anni il Festival Triestino ha allargato, forse un po' troppo, proponendo quest'anno ad esempio un focus sul cinema greco, aprendo il festival con l'ultimo film di Madonna, insomma cose che forse poco hanno a che fare con la radice mitteleuropea culturalmente e cinematograficamente. Ciò detto, le sale erano spesso piene, masterclass, le lezioni di cinema con registi del calibro di Andrei Zulavski e Marta Mejaros presi d'assalto, insomma una bella atmosfera. Fra i big omaggiati della lezione di cinema anche Jerzy Sztur, polacco, 61 anni, regista, sceneggiatore, ma soprattutto conosciuto in Italia come attore, uno degli attori simbolo del cinema di Krzysztof Kieslowski, ma anche protagonista del Caimano al fianco di Nanni Moretti, nei panni del produttore che decide di finanziare il film, forse lo ricorderete. E del suo rapporto proprio con Kieslowski e Moretti, Jerzy Sztur ci ha parlato così. Io ricordo quando nel film bianco io buttavo i pezzi di legno sulla stufa, uno ciak, secondo ciak, terzo ciak, quarto ciak, e su quarto ciak ero già un po' deconcentrato e lui mi chiama: ma perché hai buttato 6 adesso, invece prima hai buttato 5? Tecnicamente è cambiato tantissimo, partendo dalla quasi improvvisazione libera sul campo cinematografico, è arrivato alla estrema disciplina di ogni gesto, ogni parola, ogni virgola. Invece, tanto cinema italiano anche per George Stewart e Nanni Moretti, che vuol dire in Italia un universo a parte. Se posso dire la verità, la spinta di fare regia cinematografica è stata fatta da Nanni. Io ricordo 94 era forse, lui era subito dopo il suo successo Caro Diario, è venuto a Cracovia a fare un incontro con il pubblico, io ero in platea e ascoltando lui, guardando il film, ho detto: Madonna, ma anch'io potrei andare in questa strada di raccontare la propria vita, incorniciata ovviamente con la forma, diciamo, artistica. Un altro omaggio il Trieste Film Festival l'ha dedicato a Giacomo Gentilomo, triestino appunto, regista di tanto cinema popolare a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, titoli come Ecco la radio, I fratelli Karamazov, Siegfried, ma soprattutto O sole mio, il suo film più conosciuto, considerato dagli studiosi insieme a Roma città aperta forse l'iniziatore della grande avventura del neorealismo, anche se è un film che aveva anche un suo coté musicale importante, non secondario, nel suo svolgimento. Di Giacomo Gentilomo ci parla Fulvio Toffoli, storico del cinema, che negli anni Ottanta aveva diretto il documentario Un gentiluomo del cinema. Gentilomo sicuramente è un caso esemplare di una generazione di cineasti che hanno fatto grande il cinema popolare italiano, parliamo degli anni 40, soprattutto 50, e quindi Freda, Cottafavi, registi che sono cimentati con tanti generi, che erano molto duttili e con un occhio anche alle esigenze del botteghino, perché erano tutti registi che realizzavano prodotti che andavano molto bene. Gentilomo, rispetto a questi altri nomi che ho fatto, era uno però che ha vissuto sempre con una schizofrenia, ha vissuto male questo rapporto, per aver fatto quello che volevano gli altri, cioè i produttori, e per non aver seguito una sua estetica. E abbandoniamo il racconto del Trieste Film Festival per gettarci nell'atmosfera dei DVD, cominciando con il proporvi la terza traccia del film misterioso di oggi. Siamo qui per parlare delle presunte responsabilità ministeriali sulla strage di Piazza Fontana. Avete capito di che film si tratta? La Rosa Purpurea @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica, un grande successo del cinema italiano dell'ultima stagione. Ne parleremo più diffusamente la prossima settimana con Claudio Pofi, che è già qui con noi per raccontarci tutte le ultime novità in DVD. Ciao Claudio! Ciao Franco, eccoci pronti. Allora, cominciamo con le tracce di un DVD game abbastanza particolare, singolare, che avevamo fatto la settimana scorsa, facendovi ascoltare non tre tracce di uno stesso film, ma tre film diversi. C'era da indovinare di quali film si trattava, almeno uno di questi, e proprio se non ci riuscivate, diciamo così, c'era da indovinare l'attrice. Andiamo allora ad ascoltare una di queste tracce e poi la soluzione. E così volevi dare l'appartamento a un vecchio compagno d'armi. Oh, è arrivata Bobby. Perché non m'hai detto che era una ragazza? Signora Scott, lei è gelosa. Certo che lo sono. Se penso a tutte le persone che hai conosciuto in 2 anni, con le quali hai trascorso più tempo che abbiamo con me... Abbiamo tutta una vita per rifarci. Avrete capito, l'avete capito in molti, qualcuno non ha indovinato i film, non era facile, si trattava di Marilyn Monroe. Nei suoi film, tre film, pensate, girati tutti e tre nel 1951 in America, quando Marilyn era ancora, diciamo, non consolidata come sex symbol mondiale, come donna del desiderio e dell'attenzione mediatica planetaria. I film erano Mia moglie si sposa, indovinato e vinto da Luca Canton di Mestrino, in Veneto, Le memorie di un Don Giovanni, indovinato e vinto da Andrea Cipriani di Padova, e Matrimoni a sorpresa, che invece andrà a Fabrizio Pascotto. Si tratta di tre film importanti, Claudio, perché sono per la prima volta in DVD editi dalla Fox. Si tratta di una Marilyn un po' diversa da quella, ripeto, conclamata, che abbiamo apprezzato e conosciuto nei suoi film più famosi. Sicuramente una Marilyn più in erba. Questo però non significa che i film non siano interessanti, anzi un modo per scoprire gli inizi, gli esordi di questa bravissima attrice, bellissima, che ritroviamo in grande forma, perché Fox dà per la prima volta la possibilità di visionare le opere in DVD, tutte e tre in bianco e nero, di grandissima qualità, naturalmente l'audio disponibile è monofonico, ma non c'è stato alcun tipo di rimestamento nell'offrire il doppiaggio, un doppiaggio nuovo, quindi presente quello italiano originale e quello inglese, che consiglio assolutamente di ascoltare per scoprire le bellezze delle voci originali. La grande Marilyn Monroe, per così incorniciare, sottolineare meglio questa stagione dell'opera di Marilyn Monroe. Abbiamo sentito il collega Marco Spagnoli, che su Marilyn Monroe ha curato la biografia Come una candela al vento. Beh, è una Marilyn che è appena stata notata, diciamo, dal grande pubblico attraverso La giungla d'asfalto, che è del 1950. È una Marilyn che, alla ricerca di un'identità, Marilyn voleva diventare una star. Di lì a poco avrebbe avuto l'opportunità, con due o tre film, io penso a Niagara, uno su tutti, che la fanno notare progressivamente e creano il fenomeno mediatico intorno a questa donna bellissima, che nel giro di pochi anni farà dei film importantissimi. Adesso noi ci concentriamo sulle due altre novità che arrivano nelle videoteche in queste settimane, in questi giorni, cominciando da un film italiano, italianissimo, ma che è stato completamente girato fra lo Sri Lanka e la Germania. Si intitola Machan, ascoltiamo la clip. Questo è il piano, senti, fase numero uno, scriviamo una bella lettera in Germania. Loro rispondono e ci mandano un invito. Noi portiamo l'invito all'ambasciata e così quei bastardi dovranno darci per forza il visto. E poi noi spicchiamo il volo per la Germania. Semplice. Vogliono una squadra di pallamano. E allora? Eddie Dolman, questo bellissimo film che ci racconta la storia di questi amici che in qualche modo cercano di sbarcare il lunario, vivono a Sri Lanka, sono tutti molto poveri e hanno un sogno, quello di raggiungere l'Europa e la Germania. Si inventeranno letteralmente questa occasione che arriva da un torneo di pallamano in Baviera e fanno letteralmente carte false per riuscire a raggiungere. Una commedia molto divertente, con un aspetto umano toccante. Ci sono dei curiosi contenuti extra, perché è presente un'intervista al regista Uberto Pasolini con inserti di riprese sul set e scene tagliate con sottotitoli in inglese e un making of promozionale. E cambiamo decisamente clima con un film che arriva nelle videoteche da casa Disney, si intitola Cambio di gioco, ascoltiamo la clip. Ti senti bene? Secondo te sto bene. Che ci hai messo in quei biscotti? Farina, latte, uova, un po' di cannella. Cannella? Io sono allergico alla cannella, Peyton. Distribuisce Disney questa divertente commedia che vede come star Dwayne The Rock Johnson, che qui in una nuova incursione nella commedia americana interpreta la grande star del football americano Joe Kingman, un uomo tutto d'un pezzo che si piegherà di fronte alla scoperta di questa figlia che bussa alla sua porta e irromperà nella sua vita. Un DVD di qualità sia sotto il profilo video che audio, sono presenti scene eliminate, errori sul set, un approfondimento sulla sceneggiatura e due speciali del canale televisivo ESPN americano. Grazie allora Claudio Poffi, appuntamento fra 7 giorni per chiacchierare di DVD. A presto, un saluto. E con Claudio Poffi noi chiudiamo come sempre l'appuntamento con La Rosa Purpurea. Fra 7 giorni saremo di nuovo qui su Radio 24 per raccontarvi tutto il cinema che c'è, a partire da Revolutionary Road, l'attesissimo film che rimette insieme la coppia di Titanic, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, sabato alle 18, domenica alle 19. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisi.